C'era una volta un re, il quale aveva tre figli, tre pezzi di giovanotti forti e coraggiosi, ed egli si era messo paura che volessero salire sul trono prima della sua morte, tanto più che, stando a certe voci che correvano, i suoi figli cercavano dappertutto di farsi dei partigiani per impadronirsi del regno. Il re cominciava a essere un po' in là con gli anni, ma essendo ancora verde di spirito e sano di mente, non se la sentiva punto di cedere loro un posto occupato da lui con tanta dignità. Pensò dunque che il miglior partito per vivere tranquillo fosse quello di tenerli a bocca dolce a furia di promesse che egli avrebbe saputo sempre deludere e mandare in fumo. Li chiamò nel suo gabinetto. E dopo aver parlato alla buona di varie cose, saltò fuori col dire: «Miei cari figli, voi converrete meco che la mia età avanzata non mi permette più di accudire agli affari di Stato con lo stesso impegno d'una volta. Temo che i miei sudditi ne abbiano a risentire i danni, ed è per questo che ho deciso di mettere la corona sul capo a uno di voi tre. Peraltro è ben giusto che, in compenso di un regalo simile, voi dobbiate cercare di compiacermi nel mio disegno, che oramai ho fatto, di ritirarmi in campagna. Mi pare che un canino vispo, fido, grazioso, potrebbe tenermi un'ottima compagnia. Così, senza stare a scegliere il figlio maggiore piuttosto del minore, io vi dichiaro che quello che di voi tre mi porterà il canino più bello, quello sarà il mio erede». I principi restarono sorpresi del capriccio del loro padre per un canino, ma i due minori vi trovarono il loro tornaconto ed accettarono con piacere la commissione di andare in cerca di un cane. Quanto al figlio maggiore, era troppo timido e troppo rispettoso per far valere i suoi diritti. Presero quindi congedo dal re, il quale li fornì d'oro e di pietre preziose, soggiungendo che fra un anno, né più né meno, in quello stesso giorno e alla medesima ora, dovessero tornare a portargli ciascuno il suo canino. Prima di mettersi in viaggio, i tre fratelli andarono a un castello, discosto appena un miglio dalla città. Menarono seco gli amici e fecero gran baldoria, giurandosi tutti e tre amicizia eterna e restando intesi che in questa faccenda avrebbero ciascuno tirato avanti per il fatto suo, senza gelosie e rancori, e che in ogni caso il più fortunato avrebbe sempre tenuto a parte gli altri due della sua fortuna. E così partirono, dopo aver fissato che al ritorno si sarebbero ritrovati nello stesso castello, per poi recarsi tutti insieme dal re. Non vollero con sé nessuno e cambiarono di nome per non essere riconosciuti. Ciascuno prese una via diversa. I due maggiori ebbero molte avventure, ma io racconterò soltanto quelle del minore, il quale era grazioso, d'umore allegro e piacevole, una bella testa, fisionomia signorile, fattezze regolari, bei denti e moltissima destrezza in tutti quegli esercizi che completano l'educazione di un gentiluomo. Cantava con gusto, suonava il liuto e la chitarra da incantare, maneggiava la tavolozza, era insomma un cavaliere compitissimo e di un coraggio che rasentava la temerità. Non passava giorno che non comprasse grandi cani, piccoli levrieri, bulldogs da caccia, spagnuoli, barboni. Se ne aveva uno bello e ne trovava un altro più bello, lasciava il primo per tenersi l'altro, perché gli sarebbe stato impossibile, solo com'era, dimenarsi dietro 30 o 40 mila cani. Ed egli non voleva con sé nessuno strascico di gentiluomini o di servitori o di paggi. Camminava e camminava, senza sapere neanche lui dove andasse, quando ecco che una volta si trovò sorpreso dalla notte, dai tuoni e da un gran rovescio d'acqua nel mezzo d'una foresta, dove non raccapezzava più nemmeno la strada che doveva fare. Prese il primo viottolo che gli capitò fra i piedi e, dopo aver camminato un pezzo, poté scorgere un po' di luce e da questa si figurò che, non molto lontano, ci dovesse essere qualche casa dove avrebbe potuto mettersi al coperto fino al giorno. Guidato così da quella po' di luce che vedeva, giunse alla porta di un castello, il più magnifico che si possa immaginare. La porta era d'oro, coperta di carbonchi, il cui bagliore limpido e smagliante illuminava tutti dintorni. E questa era la luce che il principe aveva veduto di lontano. I muri erano di porcellana trasparente, sulla quale, dipinta in colori, si vedeva la storia di tutte le fate dalla creazione del mondo in poi. Né vi erano dimenticate le famose avventure di Pelle d'Asino, di Finetta, di Melarancio, di Graziosa, della Bella Addormentata nel Bosco, di Serpentino Verde e di cent'altri. Gli fece grandissimo piacere di riconoscervi anche il principe Folletto, perché era suo zio, all'uso di Bretagna. La pioggia e la stagione indiavolata gli levarono la voglia di trattenersi più a lungo in un luogo dove si bagnava tutto fino all'ossa, senza contare che dove non giungeva il riflesso luminoso dei carbonchi non ci si vedeva proprio di qui a lì. Tornò alla porta d'oro e vide uno zampetto di capriolo attaccato in fondo ad una piccola catena tutta di diamanti. E non poté di meno di restare a bocca aperta, non tanto per la magnificenza di quel cordone da campanello, quanto per la gran sicurezza con la quale vivevano in quel palazzo. Perché, faceva egli a dire, che ci vorrebbe per i ladri a staccare la catenella e portar via i carbonchi? Sarebbe il vero modo di diventar ricchi una volta per tutte. Tirò lo zampetto di capriolo. Subito sentì suonare un campanello che allo squillo gli parve d'oro o d'argento. Di lì a un minuto la porta si aprì senza che egli potesse vedere altro che una dozzina di mani per aria, ciascuna delle quali teneva una fiaccola accesa. A quella vista restò così intontito che non sapeva risolversi ad entrare, quando sentì altre mani che lo spingevano per dietro e anche con una certa tal qual violenza. Egli entrò là dentro a malincuore e per ogni buon fine e rispetto portò la mano all'impugnatura della spada, quando ecco che, traversando un vestibolo tutto incrostato di porfido e di lapislazzuli, sentì due voci angeliche che cantavano così: «Delle man che vedete non vi prenda sospetto, che sotto questo tetto non c'è da temer nulla, se non le seducenti grazie di un bel visino, caso che il vostro cuore non voglia rimaner schiavo d'amore». Egli non poté immaginarsi che lo invitassero con tanta buona grazia per fargli poi un brutto tiro, per cui, sentendosi sospinto verso una gran porta di corallo che si aprì al suo avvicinarsi, entrò in una gran sala tutta di madreperla e quindi passò in altre sale ornate in mille maniere differenti e così ricche di pitture e di marmi preziosi da farlo restare sbalordito. Migliaia e migliaia di lumi che dal soffitto arrivavano fino a terra illuminavano altri quartieri, anche questi pieni di lampadari, di luci a riflesso e di ventole gremite di candele. Per farla corta, era una tal maraviglia da crederla un sogno. Dopo aver traversato una fila di 60 stanze, le mani che lo guidavano lo fecero fermare ed esso vide una poltrona grande e molto comoda che si accostò da sé sola al caminetto. In quel mentre il fuoco si accese e le mani che gli sembravano bellissime, bianche, piccole, bofficette e ben proporzionate cominciarono a spogliarlo, perché come ho detto poco fa, era tutto fradicio mezzo e c'era il caso di fargli prendere un'infreddatura. Gli fu presentato, senza che egli vedesse alcuno, una camicia così bella che era proprio una camicia da sposi, insieme a una veste da camera di stoffa trapunta d'oro e ricamata di piccoli smeraldi che formavano degli arabeschi e delle cifre. Le mani senza corpo gli avvicinarono una toletta che era una vera maraviglia e lo pettinarono con tanta leggerezza e con tanta maestria che rimase contentissimo. Poi lo rivestirono tutto, non coi panni di lui, ma con gli altri abiti molto più belli. Egli stava ammirando senza fiatare tutto quello che accadeva sotto i suoi occhi e di tanto in tanto aveva qualche brivido di paura che non poteva vincere a nessun costo. Quando l'ebbero incipriato, pettinato, profumato, vestito in gala e fatto più bello d'un amore, le solite mani lo condussero in una sala magnifica per i mobili e per le dorature. In giro alle pareti si vedeva la storia dei gatti più famosi. Rodilardo appiccicato per i piedi nel consiglio dei topi, il gatto con gli stivali, marchese di Carabà, il gatto scrivano, il gatto cambiato in donna, i sorci mutati in gatti, il sabato e tutte le sue stregonerie. Insomma, non c'era cosa più originale di questi quadri. La tavola era apparecchiata, con sopra due posate e due tovagliolini, ciascuno dei quali col suo laccetto d'oro. La dispensa faceva restare a bocca aperta per la quantità di vasi di cristallo di monte e di altre pietre preziose. Il principe non sapeva per chi fossero quelle due posate quando vide alcuni gatti che andavano a pigliar posto in una piccola orchestra fatta apposta per loro. Uno portava un libro pieno di capperi e di note le più strane del mondo, un altro teneva in mano un quaderno arrotolato per battere il tempo, gli altri avevano delle piccole chitarre. Tutto a un tratto ciascuno di essi cominciò a miagolare in diversi toni e a grattare con l'unghie le corde della chitarra. Il principe avrebbe quasi creduto di essere capitato all'inferno se non gli fosse parso che il palazzo fosse troppo meraviglioso per dar motivo a simili sospetti. E non potendo far altro, si tappava gli orecchi e si buttava via dalle risate a vedere i gesti e alle boccacce di quei musicanti di una razza nuova. Mentre stava pensando alle tante cose che gli erano accadute in questo castello, vide entrare una figurina non più alta di mezzo braccio. Questa specie di bambolina era coperta dalla testa ai piedi da un lungo velo di crespo nero. L'accompagnavano due gatti, anch'essi abbrunati, col mantello e la spada al fianco, e dietro a loro un numeroso corteggio di gatti che portavano trappole e gabbie piene di sorci e di topi. Il principe era fuori di sé dallo stupore e non sapeva che cosa pensare. Intanto la bambolina si avvicinò e si tolse il velo, sicché egli poté vedere la più bella gattina fra quante ce ne furono e ce ne saranno mai. Ella appariva molto giovine e molto afflitta e faceva un miagolio così dolce e carino che andava proprio al cuore. Ella disse al principe: «Figlio di re, tu sei il benvenuto. La mia miagolante maestà ti vede con piacere». «Signora gatta», disse il principe, «voi siete molto buona a farmi sì cortese accoglienza, ma voi non mi avete l'aria di essere una bestiolina come tutte le altre. Il dono della parola e il bel castello che possedete ne sono una prova lampante». «Figlio di re», riprese la gatta, «ti prego, non mi dire dei complimenti. Io sono semplice di modi e di parole, ma ho un buon cuore». «Animo», continuò ella, «si serva subito in tavola». E i musicanti tacciano, perché tanto il principe non intende nulla di quello che dicono. «Dicono forse qualche cosa?» domandò egli. «Ma sicuro?» ella soggiunse. «Perché qui ci sono dei letterati che hanno moltissimo spirito e se resterete un poco fra noi, ve ne persuaderete facilmente». «Basta sentirvi discorrere per crederlo subito», disse il principe con molta galanteria, «ed è per questo, o signora, che vi stimo una gatta veramente singolare». Fu portata la cena, la quale era servita da quelle stesse mani appartenenti a corpi invisibili. Si rifecero dal mettere in tavola due pasticci, uno di piccioncini e l'altro di sorci grassi come ortolani. La vista di quest'ultimo pasticcio fece perdere al principe la voglia di assaggiare il primo, per il sospetto che tutti e due fossero stati cucinati dallo stesso cuoco e con le medesime rigaglie. Ma la gattina, vedendogli far boccuccia, indovinò la sua idea e lo accertò che la sua cucina era fatta a parte e che poteva mangiare tranquillamente le pietanze che gli avessero messo dinanzi senza scrupolo di trovarci dentro o topi o sorci. Il principe non se lo fece dire due volte, persuaso che la bella gattina non poteva avere nessun motivo per dargli ad intendere una cosa per un'altra. E mentre mangiava gli venne fatto notare che ella aveva un piccolo ritratto in avorio attaccato a una zampa e gli fece specie. La pregò se avesse voluto mostrarglielo, credendo che fosse il ritratto di padron Burricchio, ma rimase oltremodo stupito nel vedere che era un giovine così bello da non credere che la natura n'avesse formato un altro compagno. E il ritratto somigliava tanto a lui che se gliel'avessero dipinto apposta non poteva essere più vero e più parlante. Ella sospirò e, facendosi ancora più trista, serbò un profondo silenzio. Il principe capì che ci doveva essere sotto qualche cosa di misterioso e di straordinario, ma non ebbe cuore di chiedere spiegazioni per paura di far dispiacere alla gatta e di affliggerla più che mai. Egli le parlò di tutte le novità che sapeva e la trovò istruttissima degli interessi delle case principesche e di tutti i fatti che accadevano nel mondo. Alzati da cena, la gatta bianca invitò il suo ospite a voler passare in una gran sala dove c'era un teatro sul quale davano un balletto 12 gatti e 12 scimmie. Gli uni erano vestiti da mori, le altre da cinesi. È facile immaginarsi i salti e le capriole che facevano e i graffi e le zampate che di tanto in tanto si scambiavano fra loro. La serata finì così. Gatta Bianca diede la buonanotte al suo ospite e le mani che l'avevano condotto fin lì lo ripresero e lo menarono in un quartiere che era tutto differente da quello che aveva visto. Poteva dirsi più elegante che magnifico, ed era tappezzato di cima in fondo di ali di farfalle, i cui variati colori formavano mille fiori diversi. Vi erano pure delle penne di uccelli rarissimi e che forse non si sono veduti altro che in quel luogo. I letti erano di velo e ornati con bellissimi fiocchi di nastro e dappertutto grandi specchi che andavano dall'impiantito al soffitto e messi dentro a cornici cesellate d'oro e che rappresentavano migliaia e migliaia di piccoli amorini. Il principe entrò a letto senza fare una parola, perché era impossibile attaccare un po' di conversazione con le mani che lo servivano. Dormì poco e fu svegliato da un rumore confuso. Le mani lì pronte lo tirarono subito fuori dal letto e gli messero addosso un vestito da caccia. Dette un'occhiata giù nella corte del castello e vide più di 500 gatti, dei quali alcuni tenevano i levrieri al guinzaglio e gli altri suonavano il corno. Era una gran festa. Gatta Bianca andava alla caccia e voleva che il principe fosse della partita. Le solite mani addette al suo servizio gli presentarono un cavallo di legno che correva a briglia sciolta e che sapeva andare al passo, che era uno stupore. Egli stitignava un poco a montarci sopra, dicendo che era quasi lo stesso che fargli fare la figura di cavaliere errante come Don Chisciotte, ma la sua mala voglia gli giovò poco. Si trovò messo di peso sul cavallo di legno, il quale aveva una gualdrappa e una sella a ricami d'oro e di diamanti. Gattabianca cavalcava uno scimmiotto, il più bello e il più fiero che si potesse mai vedere. Essa aveva lasciato il suo gran velo e portava in testa un berretto da amazzone che le dava una cert'aria di spavalderia che metteva paura a tutti i sorci del vicinato. Non c'è stata mai un'altra caccia divertente come quella. I gatti correvano più dei conigli e delle lepri e così, quando chiappavano qualche animale, Gattabianca voleva che lo mangiassero dinanzi a lei e questa cosa dava luogo a mille giochi piacevolissimi di agilità e di destrezza. E nemmeno gli uccelli dal canto loro erano sicuri, perché i gattini s'arrampicavano su per gli alberi e il bravo scimmiotto portava Gattabianca fin dentro ai nidi delle aquile perché disponesse a piacer suo delle piccole altezze aquiline. Finita la caccia, ella prese un corno lungo un dito, ma che mandava un suono così chiaro e sfogato da farsi sentire benissimo alla distanza di 100 miglia. Quando ebbe fatti 2 o 3 squilli di corno, si vide circondata da tutti i gatti del paese. Alcuni arrivarono per aria, portati in cocchio, altri venivano per acqua, dentro le barche. Insomma, era uno spettacolo mai veduto. Quasi tutti erano vestiti in diversi modi. Gattabianca, accompagnata da questo pomposo corteggio, ritornò al palazzo e pregò il principe a venirvi anche lui. Egli gradì l'invito, sebbene tutto questo gattaio gli sapesse un po' troppo di sabato e di stregheria e la gatta parlante gli paresse più strana e più inconcepibile di tutto il resto. Appena entrata nel palazzo, le portarono il suo velo nero. Cenò col principe, il quale aveva una fame che parevano 2, e mangiò per 4. Furono portati dei liquori che egli gustò volentieri, ma che gli fecero dimenticare lì per lì il canino che doveva portare al re. Da quel momento in poi non aveva altro pensiero che stare a miagolare con Gattabianca o, come chi dicesse, a tenerle buona e fidata compagnia. Tutti i giorni passarono in feste piacevoli, ora alla pesca, ora alla caccia, e poi balli, tornei e altri spassi che lo divertivano moltissimo. Spesso e volentieri la bella gatta faceva dei versi e delle canzonette in uno stile così appassionato da far capire che aveva il cuore sensibile e che certe cose non si sanno dire senza essere innamorati. Ma il suo segretario, che era un vecchio soriano, aveva una mano di scritto così brutta che, sebbene le opere di lei siano state conservate, oggi è impossibile leggerle e raccapezzarvi dentro qualche cosa. Il principe si era scordato di tutto, perfino del suo paese. Le solite mani, rammentate tante volte, continuavano a servirlo. Qualche volta si pentiva di non essere un gatto per poter passare tutta la vita in così amabile compagnia. «Povero me», diceva egli a Gattabianca, «come sarei disperato se dovessi lasciarvi. Vi amo tanto. O diventate donna o fatemi diventare un gatto». Ella pigliava in chiasso queste parole e gli dava delle risposte così ambigue e sibilline da non ricavarci un numero. Un anno passa presto, in specie quando non si hanno né seccature né pensieri e quando si sta bene di salute e ci manca il tempo per potersi annoiare. Gattabianca sapeva il giorno in cui egli doveva tornare a casa e perché egli non ci pensava più, crede ben fatto ricordarglielo. «Sai tu», ella gli disse, perché ti restano 3 giorni solamente per cercare il canino tanto desiderato da tuo padre e che i tuoi fratelli ne hanno trovati dei bellissimi?» Il principe ritornò in sé e, maravigliandosi della sua negligenza, «Per quale incantesimo piacevole», disse, «ho potuto scordarmi di una cosa che mi stava a cuore al di sopra di tutte le altre. Ce ne va della mia gloria e della mia fortuna. Dove troverò un canino proprio come ci vuole per guadagnare un regno e un cavallo così scappatore da arrivare in tempo?» E incominciò a inquietarsi e a mettersi di cattivo umore. Gatta Bianca, con una vocina carezzevole, gli disse: «Figlio di re, non ti dare alla disperazione. Io sono fra i tuoi buoni amici. Puoi trattenerti qui ancora un giorno, perché sebbene da qui al tuo paese ci siano più di 2000 miglia, il bravo cavallo di legno ti ci porterà in meno di 12 ore. «Vi ringrazio, mia bella gatta», disse il principe. «Peraltro non mi basta di tornare da mio padre, ma bisogna che gli porti anche un canino». «Tieni», gli disse Gatta Bianca, «eccoti una ghianda, dove ce ne troverai dentro uno assai più bello della stessa canicola». «Via, via, signora gatta», disse il principe, «vostra maestà si piglia gioco di me». «Avvicina la ghianda all'orecchio», ella soggiunse, «e lo sentirai abbaiare». Esso obbedì e sentì subito il canino che faceva «bu, bu». Il principe saltava dalla contentezza, perché un canino che può entrare in una ghianda bisogna che sia piccino davvero. Egli voleva aprirla, perché si struggeva di vederlo, ma Gatta Bianca gli disse che per la strada avrebbe potuto sentir freddo e che era meglio aspettare che fosse dinanzi al re suo padre. Il principe la ringraziò 1000 volte e poi dell'altro, e gli dette un addio che veniva proprio dal cuore. «Vi giuro», egli soggiunse, «che i giorni mi sono passati come un lampo. Volere o non volere, sento che mi dispiace lasciarvi, e sebbene voi siate qui la sovrana e i gatti che vi corteggiano siano più spiritosi e galanti dei nostri, io non mi perito a invitarvi a venir via con me». La gatta a questa proposta rispose con un profondo sospiro. Si lasciarono. Il principe arrivò il primo nel luogo dove coi suoi fratelli era stato fissato il ritrovo. Dopo poco arrivarono anche gli altri e rimasero maravigliati nel vedere un cavallo di legno che caracollava meglio di quelli delle scuole di equitazione. Il principe andò loro incontro, si abbracciarono ripetutamente e si raccontarono le avventure dei loro viaggi. Ma il nostro principe non disse tutta la verità circa quanto gli era accaduto e mostrò ai fratelli un canucciaccio mezzo spelacchiato, dicendo che gli era parso così grazioso che aveva pensato di portarlo a suo padre. Per quanto si volessero bene tra fratelli e fratelli, non di meno i due maggiori sentirono un gran piacere dalla cattiva scelta fatta dal minore, e perché erano a tavola si davano di nascosto nel piede come per dire che da lui non avevano nulla da temere. Il giorno dopo partirono tutti e tre insieme nella medesima carrozza. I due figli maggiori del re avevano in alcuni panieri dei canini così belli e così delicati che pareva non si dovessero toccare per paura di sciuparli. Il minore aveva il suo cane spelacchiato, così inzaccherato di mota che nessuno lo voleva accosto. Appena arrivati al palazzo, tutti furono loro d'intorno per dargli il bentornato. Quindi passarono nelle stanze del re. Esso non sapeva in favore di chi decidersi, perché i due cani presentati dai suoi figli maggiori erano pari a bellezza, e già i due fratelli si disputavano il vantaggio della successione al trono, quando ecco che il principe trovò il mezzo di metterli d'accordo, cavando fuori di tasca la ghianda che Gattabianca gli aveva dato. Apertala in presenza di tutti, ciascuno poté vedere un canino accovacciato nel cotone, il quale sarebbe passato attraverso un anello da dito senza nemmeno toccarlo. Il principe lo posò in terra ed egli si mise a ballare la sarabanda con accompagnamento di nacchere e con tanta grazia e leggerezza che non avrebbe saputo far meglio la più celebre ballerina spagnola. Esso era di mille colori, tutti diversi, e il pellame e gli orecchi gli toccavano terra. Il re rimase un po' male, perché era proprio impossibile trovar da ridire qualche cosa sulla bellezza di quel cagnolino. A ogni modo, egli non aveva punta voglia di disfarsi della sua corona. Ogni rosone di essa gli era mille volte più caro di tutti i cani dell'universo. Disse dunque ai suoi figliuoli di essere arcicontento di tutto quello che avevano fatto, ma siccome eran riusciti così bene nella prima prova, voleva avere un altro saggio della loro abilità prima di mantenere la parola data, per cui dava loro tempo un anno a cercargli una pezza di tela così fine e sottile da passar tutta dalla cruna di un ago, di quelli da ricamo. Tutti e tre sentirono male la cosa di doversi rifar da capo a cercare. I due principi, i cui cani erano meno belli di quelli del fratello minore, si rassegnarono. Ognuno se n'andò per il suo viaggio e senza perdersi in tante tenerezze come la prima volta, perché il bel cagnolino era stato cagione di un certo raffreddamento fra loro. Il nostro principe rimontò sul suo cavallo e, senza curarsi d'altri aiuti all'infuori di quelli che poteva attendere dalla gatta bianca, partì alla gran carriera e ritornò al castello dove ella gli aveva fatto così buon viso e lieta accoglienza. Trovò che tutte le porte erano spalancate e le mura risplendenti per 100.000 fiaccole accese che facevano un effetto meraviglioso. Le solite mani che l'avevano servito sempre con tanta puntualità gli si fecero incontro e, presa la briglia del bravo cavallo di legno, lo portarono alla scuderia mentre il principe si avviava verso la camera di Gattabianca. Ella stava coricata dentro una piccola cestina sopra un guanciale di seta bianca come la neve. La sua pettinatura era un po' trascurata e la fisionomia abbattuta e trista, ma appena visto il principe fece mille salti e mille sgambetti per fargli intendere la gioia che provava. «Per quante ragioni avessi per credere al tuo ritorno», disse ella, «ti confesso, o figlio di re, che ci contavo assai poco. Per il solito sono così disgraziata nei miei desideri che questa volta mi par proprio di aver avuto una vera fortuna». Il principe, in ricambio, le fece mille carezze e le raccontò l'esito del suo viaggio, che forse ella già sapeva meglio di lui, e venne a dire come qualmente il re voleva una pezza di tela che potesse passare dalla cruna ad un ago, che questa cosa a lui gli pareva impossibile, ma che a ogni modo voleva tentarla, ripromettendosi miracoli dalla buona amicizia e dall'aiuto di lei. Gattabianca, pigliando una cert'aria di serietà, rispose che non era una faccenda da darsene pensiero, che per buona fortuna aveva nel suo castello delle gatte che filavano benissimo, che essa pure vi avrebbe messo lo zampino per mandare avanti il lavoro. In una parola, che egli poteva starsene tranquillo e che avrebbe trovato lì quello che cercava senza bisogno di andare a girellone per il mondo. In quel punto apparirono le mani, le quali portavano delle fiaccole, e il principe, andando dietro a esse insieme con Gattabianca, entrò in una magnifica terrazza coperta che dava lungo un gran fiume sul quale furono incendiati bellissimi fuochi d'artificio. Vi si dovevano bruciare 4 gatti ai quali era stato fatto un processo in tutte le regole. Erano accusati di aver mangiato l'arrosto preparato per la cena di Gattabianca, il suo formaggio e il suo latte, e di aver cospirato contro la sua real persona insieme con Marta Faccio e l'Eremita, famosi topi di quella contrada e tenuti per tali anche dalla Fontaine, scrittore degnissimo di fede. Ma con tutto questo si sapeva che nel processo c'erano stati molti pasticci e che quasi tutti i testimoni avevano preso il boccone. Fatto sta che il principe ottenne per loro la grazia e i fuochi d'artificio non bruciarono nessuno e dei razzi e delle girandole a quel modo non se ne erano mai più vedute. Dopo i fuochi fu imbandita una cena che il principe gustò assai più delle girandole e dei razzi, perché aveva una fame da lupi, per la cagione che il suo cavallo di legno l'aveva fatto correre tanto come fosse stato in strada ferrata e anche di più. I giorni passavano e si somigliavano, feste dalla mattina alla sera e sempre differenti, con le quali l'ingegnosa Gattabianca teneva allegro il suo ospite. E forse non c'è stato un altro mortale che si sia tanto divertito, non avendo con sé altra compagnia che quella dei gatti. Gli è vero che Gattabianca aveva uno spirito grazioso, seducente e adattato a ogni cosa. Ella ne sapeva più di quel che è lecito sapere a un gatto, e il principe molte volte ne rimaneva stupito. «No», esso le diceva, «le meraviglie che mi vien fatto di notare in voi non sono punto naturali. Se voi mi amate davvero, carissima amicina, ditemi, per quale miracolo pensate e parlate con tanta finezza di buon senso da rendervi degna di sedere fra i begli ingegni delle più celebrate accademie?» «Finiscila con queste domande, figlio di re», ella gli disse. «A me non è lecito risponderti. Tu puoi almanaccare quanto ti pare e piace, padronissimo. Ti basti soltanto sapere che avrò sempre per te una zampina col guanto di velluto e che ogni cosa che ti riguarda sarà come se fosse una cosa mia». Questo secondanno passò senza darsene come il primo. Il principe non aveva tempo di desiderare un oggetto che le solite mani, sempre pronte, glielo portavano subito, sia che si trattasse di libri, di gemme, di quadri, di medaglie antiche. Insomma, egli non doveva far altro che dire «Voglio il tal bijou che è nel cabinetto intimo del Mogol o del re di Persia o la tale statua di Corinto o di Grecia». E subito vedeva comparirsi davanti ciò che desiderava, senza sapere né chi gliel'avesse portata né di dove venisse. Ecco una virtù magica che ha le sue attrattive e che, non fosse altro per passatempo, ci farebbe nascere la voglia di diventare padroni dei più bei tesori della terra. Gattabianca, che non perdeva mai d'occhio gli interessi del principe, lo avvertì che il tempo della sua partenza si avvicinava e che poteva stare tranquillo in quanto alla pezza di tela tanto desiderata, perché essa gliene aveva tessuta una meravigliosa, aggiungendo che questa volta voleva regalargli un equipaggio degno di lui. E senza dargli tempo di rispondere, lo obbligò a guardar giù nel cortile del castello. E lì, infatti, vi era una carrozza scoperta, tutta d'oro smaltato, color fuoco, con mille imprese galanti dipinte sopra che facevano piacere agli occhi e alla mente. V'erano attaccati 4x4 12 cavalli bianchi come la neve, carichi di gualdrappe di velluto rosso fiammante, ricamate a diamanti e guarnite di fibbie e di piastrelle d'oro. La carrozza era foderata dentro con la stessa magnificenza ed aveva un seguito d'altre 100 carrozze a 8 cavalli, tutte piene di signori di grande apparenza e splendidamente vestiti. V'era di scorta un reggimento di 1000 guardie del corpo, le cui uniformi erano così coperte di ricami e di alamari che il panno non si distingueva più. E la cosa singolare era questa, che il ritratto della gatta bianca si vedeva dappertutto, sugli stemmi della carrozza, sull'uniforme delle guardie e perfino attaccato con un nastro all'occhiello dell'abito dei cortigiani, come la insegna di un nuovo ordine cavalleresco di cui essa li avesse onorati. «Ora parti pure», disse ella al principe, «e presentati al re tuo padre in codestarnese abbagliante, e che la tua magnificenza da gran signore lo metta in soggezione tanto da non aver cuore di ricusarti il trono che ti sei meritato. Eccoti una noce, guarda bene di non schiacciarla finché non sarai alla presenza di lui. Dentro ci troverai la pezza di tela che m'hai domandata». «Graziosa Bianchina», egli rispose, «vi giuro che sono talmente preso dalle vostre gentilezze per me che, se foste contenta, preferirei di passare la vita con voi a tutte le grandezzate che mi aspettano fuori di qui». «Figlio di re», ella soggiunse, «io credo alla bontà del tuo cuore, merce rara fra i principi, perché essi vogliono essere amati da tutti e non amar nessuno. Ma tu sei l'eccezione alla regola. Io ti tengo conto del bene che dimostri di volere a una gattina bianca la quale, in fondo, non è buona d'altro che a prender topi». Il principe le baciò la zampetta e partì. Se già non si sapesse come il cavallo di legno gli avesse fatto fare 2000 miglia in meno di 48 ore, ora si stenterebbe a credere la gran furia che messe per arrivare in tempo, se non che la stessa potenza che animava il cavallo di legno spronò talmente anche gli altri che non restarono per la strada più di 24 ore. Non fecero neppure una fermata finché non furono giunti dal re, dove già i due fratelli maggiori si trovavano, i quali, non vedendo arrivare il fratello minore, gongolavano del suo ritardo e bisbigliavano fra loro sottovoce: «Questa è una bazza per noi, o è morto o è malato, e così avremo un rivale in meno nella successione al trono». Senza perdere tempo spiegarono le loro tele, le quali, a dir la verità, erano tanto fini da passare dalla cruna di un ago grosso, ma per in quanto alla cruna di un ago sottile era inutile parlarne. E il re, tutto contento di aver trovato questo attaccagnolo, mostrò loro l'ago che egli aveva prescelto e che per ordine suo i magistrati avevano recato dal tesoro della città, dove era stato gelosamente custodito. Nacque un gran diverbio e tutti vollero dire la sua. Gli amici dei principi, e segnatamente quelli del maggiore, la cui tela senza dubbio era la più bella, sostenevano che il re aveva messo fuori una gretola dove c'era mescolata molta dose di furberia e di malafede. Alla fine, per troncare ogni pettegolezzo, si sentì per la città il rumore allegro e cadenzato di una fanfara di trombe, timballi e clarinetti. Era il nostro principe che arrivava col suo splendido corteggio. Il re e i suoi due figli fecero tanto d'occhio alla vista di uno spettacolo così sorprendente. Appena ebbe salutato rispettosamente il padre suo e abbracciati i fratelli, cavò fuori da una scatola tutta incrostata di rubini la noce e la schiacciò. egli si aspettava di trovarci la pezza di tela tanto decantata, ma invece c'era una nocciola. Schiacciò anche questa e rimase stupito di trovarci dentro un nocciolo di ciliegia. Tutti si guardarono in viso. Il re se la rideva sotto i baffi e si divertiva alle spalle del figlio, il quale era stato tanto baccello da credere di poter portare una pezza di tela dentro una noce. Ma perché non ci doveva credere quando già gli era stato dato un canino che entrava tutto in una ghianda? Egli schiacciò anche il nocciolo di ciliegia, il quale era tutto pieno della sua mandorlina. Allora cominciò per la sala un gran bisbiglio e non si sentiva altro che questo ritornello. Il principe cadetto l'hanno preso a godere. Egli non rispose nulla alle insolenti freddure dei cortigiani. Aprì in mezzo la mandorlina e ci trovò un chicco di miglio. Oh, allora poi, per dir la verità, cominciò anch'esso a dubitare e masticò fra i denti. Ah, gatta bianca, tu me l'hai fatta! In questo punto sentì sulla mano un'unghiata di gatto che lo graffiò così bene da fargli uscire il sangue. Egli non sapeva se quell'unghiata fosse per dargli coraggio o per consigliarlo a smettere. A ogni modo aprì il chicco di miglio e lo stupore di tutti non fu piccolo davvero quando ne tirò fuori una pezza di tela di 1000 metri, così meravigliosa che c'erano dipinti sopra ogni maniera d'uccelli, di pesci, di animali, con gli alberi, i frutti e le piante della terra, gli scogli, le rarità e le conchiglie del mare, il sole, la luna, le stelle, gli astri e i pianeti del cielo. E c'erano anche i ritratti dei re e dei sovrani che regnavano allora nel mondo e quelli delle loro mogli, dei figliuoli e di tutti i loro sudditi, senza che vi fossero dimenticati i più infimi fra gli straccioni e gli sbarazzini di strada. Ciascuno nel suo stato rappresentava il personaggio che doveva rappresentare ed era vestito alla foggia del suo paese. Quando il re ebbe visto questa pezza di tela, si fece bianco in viso, come s'era fatto rosso il principe nel mentre che la cercava. Tanto il re che i due principi maggiori serbavano un cupo silenzio, sebbene a più riprese si trovassero forzati a dire che in tutto quanto il mondo non c'era un'altra cosa che potesse agguagliarsi alla bellezza e alla rarità di questa tela. Il re lasciò andare un gran sospiro e, volgendosi ai suoi figli, disse loro: «Non potete figurarvi la mia consolazione nel vedere la deferenza che avete per me. Io desidero dunque che vi mettiate a una novella prova. Andate a viaggiare ancora per un anno e colui che in capo all'anno menerà seco la più bella fanciulla, quello la sposerà e sarà incoronato re il giorno stesso delle sue nozze, perché in fin dei conti è una necessità che il mio successore abbia moglie, e faccio giuro e prometto che questa volta sarà l'ultima, e non manderò più per le lunghe la ricompensa promessa». Questa qui, a guardarla bene, era un'ingiustizia belle buona a carico del nostro principe. Il cagnolino e la pezza di tela, invece di un regno, ne meritavano 10. Ma il principe aveva un carattere così ben fatto che non volle mettersi in urto col padre suo e senza rifiatare rimontò in carrozza e via. Il suo corteggio lo seguì ed egli tornò dalla sua cara gatta bianca. Ella sapeva il giorno e il minuto che doveva arrivare. Per tutta la strada c'era la fiorita e 1000 bracieri con sostanze odorose fumavano fuori e dentro al castello. Essa se ne stava seduta sopra un tappeto di Persia, sotto un baldacchino di broccato d'oro, in una galleria dalla quale poteva vederlo ritornare. Fu ricevuto dalle solite mani che l'avevano sempre servito. Tutti i gatti si arrampicarono su per le grondaie per dargli il ben tornato con un miagolio da straziare gli orecchi. «Ebbene, figlio di re», ella gli disse, «eccoti tornato qui e senza corona». «Signora», egli rispose, «la vostra buona grazia mi aveva messo in caso di guadagnarmela». Ma ho capito che il re avrebbe più dispiacere a disfarsene di quello che io avrei gusto a possederla. Non importa, ella soggiunse, non bisogna trascurar nulla per meritarla. Io ti aiuterò anche questa volta, e poiché bisogna che tu meni alla corte di tuo padre una bella fanciulla, penserò io a cercartene una che ti faccia vincere il premio. Intanto divertiamoci, ed è per questo che ho ordinato un combattimento navale fra i miei gatti e i terribili topi del paese. I miei gatti si troveranno un po' impappinati nei loro movimenti perché hanno paura dell'acqua, ma senza di questo essi avrebbero troppo il di sopra, e per quanto si può bisogna cercare di bilanciare le forze. Il principe ammirò la prudenza della signora Micina, le fece i suoi mirallegri e andò con essa sopra una gran terrazza che dava sul mare. I vascelli dei gatti consistevano in grandi pezzi di sughero sui quali vogavano abbastanza comodamente. I topi avevano riuniti e legati insieme molti gusci d'uovo, e questi erano le loro navi. Il combattimento fu accanito e crudele. I topi si buttavano nell'acqua e nuotavano con più maestria dei gatti. E così per più di 20 volte si trovarono a essere vincitori e vinti. Ma Minagorbio, ammiraglio della flotta gattesca, ridusse l'armata topina all'ultima disperazione e si mangiò con molto gusto il generale della flotta nemica, che era un vecchio topo di grande esperienza, il quale aveva fatto per 3 volte il giro del mondo sopra grossi vascelli, dove egli non era né capitano né marinaio, ma semplice leccalardo. Gatta Bianca non volle che quei poveri disgraziati fossero interamente distrutti. Essa aveva politica e pensava che se in paese non ci fossero più stati né topi né sorci, i suoi sudditi sarebbero vissuti in un ozio che poteva alla lunga diventare pericoloso. Il principe passò anche quest'anno come i 2 precedenti, andando a caccia, alla pesca e giocando, perché bisogna sapere che Gatta Bianca era bravissima al gioco degli scacchi. Egli, di tanto in tanto, non poteva stare dal farle delle domande incalzanti per arrivare a scoprire per qual miracolo ella avesse il dono di poter parlare. Avrebbe voluto sapere se era una fata e se fosse stata cambiata in gatto al seguito di una metamorfosi. Ma siccome non c'era caso che ella dicesse mai quello che non voleva dire, così rispondeva sempre quel tanto che voleva rispondere e dava delle risposte tronche e senza significato, ragion per cui egli dovè persuadersi che Gatta Bianca non voleva metterlo a parte del suo segreto. Non c'è una cosa che passi tanto presto quanto i giorni felici. E se la Gatta Bianca non fosse stata lei a darsi il pensiero di tenere a mente il tempo preciso di far ritorno a corte, non c'è dubbio che il principe se lo sarebbe dimenticato bene meglio. Alla vigilia della partenza, ella lo avvertì che dipendeva da lui se avesse voluto menar seco una delle più belle principesse del mondo, che era giunta finalmente l'ora di distruggere il fatale incantesimo ordito dalle fate, e che per far questo bisognava che egli si risolvesse a tagliare a lei la testa e la coda e a gettarle subito nel fuoco. «Io?» esclamò. Bianchina, amore mio, e sarò io tanto spietato da uccidervi? Ah, vedo bene che volete mettere il mio cuore alla prova, ma siate pur certa che esso non è capace di mancare all'amicizia e alla riconoscenza che vi deve. No, figlio di re, ella riprese, io non sospetto in te nemmeno l'ombra dell'ingratitudine. Ti conosco troppo, ma non sta né a me né a te a regolare in questo caso i nostri destini. Fai quello che ti dico e saremmo felici. Sulla mia parola di gatta onorata e per bene ti farò vedere che ti sono amica. Al solo pensiero di dover tagliare la testa alla sua gattina, tanto carina e graziosa, il giovane principe sentì venirsi per due o tre volte le lacrime agli occhi. Disse tutto quel più che seppe dire di affettuoso per essere dispensato, ma essa intestata rispondeva che voleva morire per le sue mani e che questo era l'unico mezzo per impedire ai fratelli di lui di impadronirsi della corona. Insomma, insisté tanto e poi tanto che alla fine egli tirò fuori la spada e con mano tremante tagliò la testa e la coda della sua buona amica. In quel punto stesso si trovò presente alla più bella metamorfosi che si possa immaginare. Il corpo di Gatta Bianca cominciò a ingrandire e tutto a un tratto diventò una fanciulla, meraviglia da non potersi descrivere a parole e unica forse al mondo. I suoi occhi rubavano i cuori e la sua dolcezza li teneva legati. La sua figura era maestosa, l'aspetto nobile e modesto, lo spirito seducente, le maniere cortesi. E per dir tutto in una parola, ella era al di sopra di tutto ciò che vi può essere di amabile e di grazioso sulla terra. Il principe a vederla rimase preso da un grande stupore, ma da uno stupore così piacevole che credette di essere incantato. Non poteva spiccar parola, pareva che gli occhi non gli bastassero per guardarla e la lingua legata non trovava il verso di esprimere la sua meraviglia, la quale si accrebbe di mille doppi quando egli vide entrare una folla straordinaria di dame e di cavalieri con la loro brava pelle di gatto o di gatta gettata sulle spalle, che andavano a prosternarsi ai piedi della regina e a darle segno della gioia per vederla tornata nel suo primo stato naturale. Essa li ricevé con tutta quella bontà che rivelava l'eccellente pasta del suo cuore e del suo carattere, e dopo essersi trattenuta un poco con essi, ordinò che la lasciassero sola col principe, al quale parlò così: «Non vi mettete in capo, signore, che io sia stata sempre gatta o che la mia nascita sia oscura fra gli uomini. Mio padre era re e padrone di 6 regni. Egli amava teneramente mia madre e la lasciava liberissima di fare tutto ciò che le passava per la mente. La passione dominante di mia madre era quella di viaggiare, per cui, sebbene incinta di me, intraprese una gita per andare a vedere una montagna della quale aveva sentito dire cose dell'altro mondo. Mentre era per via, le fu detto che lì, in quei pressi, c'era un castello di fate, il più bello fra quanti se ne conoscevano, o almeno creduto tale per un'antichissima tradizione, perché, non essendovi mai entrato nessuno, non potevasi giudicarne che dal di fuori. Ma la cosa che si sapeva per certo era questa, che le fate avevano nel loro giardino certe frutta così delicate e saporite come non se ne sono mangiate mai. Ecco subito che alla regina mia madre nacque una gran voglia di assaggiarle e si avviò verso quella parte. Giunse alla porta di questo magnifico palazzo, tutto risplendente d'oro e di azzurro, ma bussò inutilmente, non comparve anima viva, e si sarebbe detto che erano tutti morti. Questi indugi servivano a farle crescere la voglia, sicché mandò in cerca di scale per scavalcare i muri del giardino. E la cosa sarebbe riuscita bene se i muri non si fossero alzati lì per lì e senza vedere una mano che ci lavorasse. Si prese allora il ripiego di mettere le scale le une sulle altre, ma finirono di fracassarsi sotto il peso di quelli che ci salivano sopra, i quali, cadendo giù, rimanevano morti o stroppiati. La regina era disperata. Vedeva i grandi alberi carichi di frutta che essa credeva deliziose e voleva cavarsene la voglia o morire. E per questo fece rizzare dinanzi al castello parecchie tende signorili e di gran lusso e vi si trattenne 6 settimane con tutta la sua corte. Non dormiva né mangiava più, non faceva altro che sospirare parlando sempre delle frutta del giardino inaccessibile, finché si ammalò senza trovare chi potesse sollevarla del suo male, perché le inesorabili fate non si fecero mai vedere dopo che ella si era attendata in vicinanza del loro castello. Tutti i suoi ufficiali si affliggevano di molto, non si sentivano che pianti e sospiri da tutte le parti, mentre la regina moribonda chiedeva delle frutte a quelli che la servivano, ma non ne voleva di altra specie all'infuori di quelle che le venivano negate. Una notte, mentre era in mezzo dormiveglia, aprì gli occhi e, svegliandosi, vide una vecchiettina decrepita e brutta più del peccato seduta in una poltrona accanto al capezzale del suo letto. Si maravigliò che le sue dame avessero lasciata passare una sconosciuta nella sua camera, quando questa le disse: «A noi ci pare che la tua maestà sia molto indiscreta a incaponirsi a voler mangiare per forza le nostre frutta, ma perché ci va di mezzo la tua vita preziosa, le mie sorelle e io acconsentiremmo a dartene tante quante ne potrai portare finché sarai qui, ma a un patto, al patto che tu ci faccia un regalo». «Ah, mia buona nonna», gridò la regina, «chiedete e domandate, io sono pronta a darvi il mio regno, il mio cuore, l'anima mia, purché mi cavi la voglia delle vostre frutta. A nessun prezzo mi parranno care. Noi vogliamo», disse ella, «che tua maestà ci dia la figlia che porti nel seno. Quando sarà nata, verremo a pigliarla e l'alleveremo noi. Non c'è virtù, bellezza o sapienza che essa non possa avere per mezzo nostro. In una parola, sarà nostra figlia e noi la faremo felice. Ma intendiamoci bene, la tua maestà non potrà rivederla fino al giorno che non si sarà maritata. Se il patto ti garba, io ti guarisco subito, menandoti qui nei pomari del nostro giardino. Non badare che sia notte, ci vedrai abbastanza per riscegliere le frutta che vorrai. Se il patto non ti va, buonanotte, signora regina, e scappo a letto. Per quanto sia dura la legge che mi imponete, rispose la regina, l'accetto piuttosto che morire, perché è più che certo che mi rimane appena un giorno di vita, e morendo io, la figlia mia morirebbe con me. Guaritemi, sapiente fata», ella seguitò a dire, «e non mi fate perdere nemmeno un minuto per arrivare al godimento della grazia che mi avete fatta». La fata la toccò con una bacchettina d'oro, dicendo: «Che la tua maestà sia libera da tutti i mali che la tengono inchiodata nel letto». A queste parole le parve di trovarsi alleggerita da una veste di piombo pesante e dura che le toglieva il respiro e che in certi punti sentiva pesarla anche di più, perché forse era lì la sede del male. Fece chiamare tutte le sue dame e disse loro con viso sorridente che stava benissimo e che si voleva levar subito, che finalmente le porte del castello serrate a chiavistello e a doppia mandata si sarebbero aperte per lei, perché potesse mangiare le belle frutta del giardino e portarne via con sé quante ne avesse volute. Fra tutte quelle dame non ce ne fu una la quale non sospettasse che la regina fosse caduta in delirio e che in quel momento sognasse a occhi aperti le frutta tanto desiderate, per cui invece di risponderle a tono si misero a piangere e fecero svegliare tutti i medici perché venissero a vederla. Questo indugio faceva inquietare la regina, la quale domandava i suoi vestiti e nessuno si muoveva, e la cosa andò tanto in là che finì col lasciarsi pigliare dalla bizza e diventò rossa come una ciliegia. Alcuni badavano a dire che era effetto della febbre, ma i medici, essendo finalmente arrivati e dopo averle tastato il polso e fatte le solite cerimonie di uso, non poterono far di meno di dichiarare che era tornata in perfettissima salute. Le sue donne, accortesi del granchio a secco che avevano preso per troppo zelo, cercarono di riparare al malfatto vestendola da capo a piedi in 4 e 4/8. Le chiesero perdono, tutto fu accomodato ed essa si affrettò a seguire la vecchia fata che l'aveva aspettata fino allora. Entrò nel palazzo, dove non ci mancava nulla per essere il più bel palazzo del mondo. E voi, signore, non penerete a crederlo, soggiunse Gatta Bianca, quando vi avrò detto che è lo stesso dove oggi io e voi ci troviamo. Due altre fate, un po' meno vecchie di quella che conduceva mia madre, vennero a riceverla alla porta e le fecero un'accoglienza che pareva proprio una festa. Essa le pregò di menarla subito nel giardino e precisamente a quelle spalliere dove avrebbe potuto trovare i frutti migliori. «Sono tutti buoni nello stesso modo», risposero le fate, «e se non fosse che tu vuoi cavarti il gusto di coglierli con le tue mani, noi non avremmo da fare altro che chiamarli e farteli venire fin qui». «Oh, ve ne supplico, signore mie», esclamò la regina, «fate che io abbia la contentezza di vedere una cosa così meravigliosa e fuori dall'usuale». La più vecchia delle due fate si pose un dito in bocca e fece 3 fischi. Poi gridò «albicocche, pesche, noci, prugnole, pere, poponi, uva mascadella, mele, arance, limoni, uva spina, fragole, lamponi, correte tutti al mio comando». «Ma», osservò la regina, «tutte codeste frutta vengono in diverse stagioni dell'anno». «Nei nostri orti non è così», esse risposero. «Noi abbiamo sempre ogni sorta di frutta della terra, sempre buone, sempre mature, e non vanno mai a male». In quel frattempo le frutta arrivarono, rotolandosi, arrampicandosi le une sulle altre, senza mescolarsi e senza insudiciarsi. Sicché la regina, che si struggeva di levarsene la voglia, vi si buttò sopra e prese le prime che le capitarono sotto mano. Non le mangiò, ma le divorò. Quando fu piena fino alla gola, pregò le fate di lasciarla andare alla spalliera per poterle scegliere con l'occhio prima di coglierle. «Volentieri», risposero le fate, «ma rammentate la promessa che avete fatta. Ormai non c'è più tempo per tornare indietro». «Io sono così persuasa», ella riprese a dire, «che qui da voi si faccia una vita d'oro e mi pare che questo palazzo sia tanto bello che se non fosse per il gran bene che voglio al re mio marito mi metterei d'accordo per restarci anch'io. Vedete dunque se è mai possibile che io possa pentirmi di quel che ho detto». Le fate, tutte contente da non si credere, le apersero i loro giardini e i recinti più appartati, e tanto essa ci si trovò bene che vi si trattenne 3 giorni e 3 notti senza allontanarsi di lì un minuto. Fece una gran provvista di frutta e ne colse quante ne poté cogliere, e perché sapeva che non andavano a male ne fece caricare 4.000 muli che condusse seco. Al dono delle frutte le fate vollero aggiungere quello dei corbelli e delle ceste d'oro, d'un lavoro finissimo che pareva fatto col fiato. Le promisero che mi avrebbero allevata da principessa, come io era, che mi avrebbero data un'educazione perfetta e a suo tempo scelto uno sposo. Le dissero di più che ella sarebbe stata avvertita del giorno delle nozze e contavano sul sicuro che non sarebbe mancata. Il re fu lieto del ritorno della regina e tutta la corte le dimostrò la sua gioia. Ogni giorno erano balli, mascherate, tornei e feste dove le frutta portate dalla regina venivano distribuite come un regalo prelibato. Il re stesso le preferiva a ogni altra cosa. Esso non sapeva nulla del patto che la regina aveva combinato con le fate e le domandava in quali paesi era stata per trovare di quelle delizie. Essa ora rispondeva che le aveva trovate sopra un'alta montagna quasi inaccessibile, ora che nascevano in vallate, e qualche volta inventava che crescevano in un giardino o in mezzo a una gran foresta. Il re non sapeva spiegarsi tante contraddizioni. Interrogava coloro che l'avevano accompagnata, ma questi non osavano fiatare per aver avuto la proibizione di dire una sola mezza parola su questa avventura. Alla fine la regina, inquieta della promessa fatta alle fate e vedendo avvicinarsi il tempo del parto, fu presa da un gran malumore. Non faceva altro che sospirare e si struggeva a vista come una candela. Il re se ne impensierì e incominciò a insistere con la regina per sapere la cagione della sua gran tristezza. E batti oggi, batti domani, finalmente essa gli raccontò tutto quello che era passato fra lei e le fate e come essa avesse promesso loro la figlia che stava per mettere alla luce. «Come!» esclamò il re. «Noi non abbiamo figliuoli. Voi sapete quanto io li desideri, e per la gola di mangiare 2 o 3 mele siete stata capace di promettere vostra figlia. Bisogna proprio dire che non mi volete un filo di bene». Egli cominciò a farle dei rimproveri e ne disse tante e tante che la mia povera madre fu quasi per morir di dolore e, come se questo fosse poco, la fece chiudere in una torre e messe delle guardie dappertutto perché non potesse barattar parola con anima viva all'infuori degli ufficiali destinati a servirla. E volle che fossero cambiate tutte quelle persone del servizio che l'avevano accompagnata al castello delle fate. Quest'urto fra il re e la regina gettò in corte una gran costernazione. Ciascuno riponeva i suoi abiti di gala per vestirne dei più adatti all'afflizione generale. Dal canto suo il re si mostrava inesorabile. Non volle più vedere sua moglie e appena fu nata mi fece portare nel suo palazzo per esservi allevata mentre mia madre era sempre in prigione e nel massimo squallore. Peraltro le fate non ignoravano quello che accadeva e se la presero molto a male e volevano avermi a tutti i costi perché mi riguardavano come cosa loro e stimavano che il ritenermi in corte fosse lo stesso che commettere un furto a loro danno. Prima di pigliarsi una vendetta coi fiocchi e proporzionata al loro dispetto, esse mandarono al re una celebre ambasceria per ammonirlo a ridare la libertà alla regina e a riammetterla nelle sue buone grazie e pregarlo allo stesso tempo di consegnar me ai loro ambasciatori. E questi ambasciatori erano nani schifosi e di una figura così tronca e piccina che non ebbero nemmeno la sorte di poter capacitare il re delle loro ragioni. Egli li messe fuori dell'uscio senza tanti complimenti e, se non facevano presto a scappare, chi lo sa come sarebbe finita. Quando le fate seppero il contegno di mio padre, presero una bizza da non si credere e, dopo aver mandato nei sei regni tutti i malanni immaginabili, vi scatenarono un drago orribile, il quale sputava veleno per tutto dove passava, mangiava bestie e cristiani e soltanto col fiato faceva seccare tutti gli alberi e tutte le piante. Il re era disperato. Si consultò con tutti i savi dello Stato per trovare il modo di liberare i suoi sudditi da tante sciagure dalle quali erano tribolati. Chi gli suggerì di mandare a cercare per tutto il mondo i migliori medici e i rimedi più accreditati, altri invece lo consigliava a promettere la grazia della vita a tutti i condannati a morte, a patto che andassero a combattere il drago. Al re piacque il consiglio e lo accettò, ma non ne ricavò nessun vantaggio, perché la mortalità infieriva di bene in meglio e quanti andavano contro il drago erano tutti divorati vivi, sicché non gli rimase altro ripiego che ricorrere a una fata che lo aveva avuto sempre sotto la sua protezione fin da ragazzo. Essa era vecchia decrepita e non si levava quasi più dal letto. Andò a casa di lei e le fece mille rimproveri perché lo lasciava tartassare a quel modo dal destino senza venire in suo aiuto. «Come volete voi che io faccia?» gli disse ella. «Voi avete inasprite le mie sorelle. Esse hanno tanto potere quanto me e non c'è caso che fra noi ci si dia addosso. Pensate piuttosto a rabbonirle, dando loro la vostra figlia. Questa principessina è cosa loro. Voi avete chiuso la regina in un buco di prigione. Che vi ha ella fatto quella donna così amabile per essere trattata tanto male? Animo, da bravo, mantenete la promessa di vostra moglie e allora vi pioverà addosso ogni felicità. Il re, mio padre, mi voleva un gran bene, ma non vedendo altro verso per salvare i suoi regni e per liberarsi dal drago fatale, finì col dire alla sua amica che s'era convinto delle buone ragioni e che non aveva più difficoltà a darmi in mano alle fate, tanto più che essa lo assicurava che sarei stata accarezzata e allevata da principessa par mio, che avrebbe ripresa con sé la regina e che la fata non aveva da far altro che dirgli a chi doveva consegnarmi perché io fossi portata al castello delle fate. Bisogna portarla, gli rispose, sulla montagna dei fiori e voi potete trattenervi lì a una certa distanza per assistere alle feste che saranno fatte. Il re le disse che dentro 8 giorni ci sarebbe andato insieme con la regina e intanto poteva avvisare le fate sue sorelle perché si preparassero a quello che volevano fare. Tornato che fu al palazzo, mandò a riprendere la regina con tanta premura e tanta pompa quanta era stata la rabbia con la quale l'aveva fatta imprigionare. Essa era così abbattuta e malandata che il re avrebbe penato a riconoscerla se il suo cuore non gli avesse detto che era quella medesima persona in altri tempi tanto amata da lui. La scongiurò con le lacrime agli occhi di dimenticare i grandi dispiaceri che le aveva cagionati, col dire che sarebbero stati i primi e gli ultimi. Ella rispose che se le era meritate per l'imprudenza di aver promesso la figlia alle fate e che in quel tempo non aveva altra scusa se non lo stato interessante in cui si trovava. Alla fine il re le palesò la sua intenzione, che era quella di consegnarmi in mano alle fate, ma la regina per la sua parte si oppose. Era proprio il caso di dire che il diavolo ci aveva messo le corna e che io doveva essere il pomo della discordia fra mio padre e mia madre. Quando ebbe pianto e singhiozzato ben bene, senza ottener nulla, perché mio padre ne vedeva le funeste conseguenze e i nostri sudditi continuavano a morire a branchi come se fossero responsabili degli errori della nostra famiglia. Diceva dunque che quando mia madre ebbe pianto e singhiozzato ben bene, si rassegnò e acconsentì a ogni cosa e si allestirono i preparativi per la cerimonia della consegna. Fui messa in una culla di madreperla, ornata di tutte quelle galanterie che l'arte può immaginare. Erano ghirlande di fiori e festoni in giro, e i fiori erano pietre preziose i cui vari colori, al riflesso del sole, lampeggiavano in modo da far male agli occhi. La magnificenza del mio abbigliamento sorpassava, se si può dire, quella della culla. Tutte le trine delle mie fasce erano di grosse perle. 24 principesse reali mi portavano sopra una specie di barella leggerissima. La loro acconciatura usciva affatto dal comune, ma non era stato permesso di usare altri colori che il bianco, come per alludere alla mia innocenza. Tutte le persone della corte, schierate per ordine e per grado, mi accompagnavano. Mentre si saliva la montagna, si fece sentire una sinfonia melodiosa che si avvicinava sempre, finché comparvero le fate, in numero di 36. Esse avevano pregate le loro buone amiche di pigliar parte alla festa. Ciascuna era seduta in una conchiglia più grande di quella di Venere quando uscì dal mare, e pariglie di cavalli marini, che non erano avvezzi a camminar per terra, strascicavano quelle brutte vecchie con tanta pompa come se fossero state le più grandi regine dell'universo. Esse portarono un ramo d'ulivo per significare al re che la sua sommissione aveva trovato grazia al loro cospetto. E allorché mi ebbero presa in collo, furono tali e tante le loro carezze che pareva non avessero altra passione che quella di rendermi felice. Il drago, che aveva servito a vendicarle contro mio padre, veniva dietro di loro, attaccato con una catena tutta di diamanti. Esse mi abballottarono fra le loro braccia, mi fecero mille carezze, mi dotarono d'ogni ben di Dio, e quindi incominciarono la ridda delle streghe. È un ballo molto allegro, né c'è da figurarsi i salti e gli sgambetti che fecero quelle vecchie zitellone. Dopodiché il drago, che aveva mangiato tanta gente, si avvicinò strisciando per terra. Le tre fate alle quali mia madre mi aveva promesso vi si sedettero sopra, misero la mia culla fra di loro e, toccato il drago con una bacchetta, questo spiegò le sue grand'ali fatte a scaglie più sottili del crespo finissimo e variopinte di mille bizzarri colori. Fu in questo modo che le fate tornarono al loro castello. Mia madre, vedendomi per aria sulla groppa del drago, non poté trattenersi dal mandare altissime grida. Il re la consolò col dire che dalla fata sua amica era stato assicurato che non mi sarebbe accaduto mai nulla di male e che anzi si sarebbe avuto di me la stessa cura come se fossi rimasta nel mio proprio palazzo. Ella si dette pace, sebbene fosse per lei una grande afflizione quella di dovermi perdere per sì lungo tempo e per cagion sua. Tanto è vero che, se non fosse stata presa dalla voglia di assaggiare i frutti del giardino, io sarei cresciuta nel regno di mio padre e non avrei avuto tutti i dispiaceri che mi resta ancora da raccontarvi. Sappiate dunque, figlio di re, che le mie custodi avevano fabbricata apposta una torre nella quale vi erano molti begli appartamenti per tutte le stagioni, mobili magnifici, libri piacevolissimi, ma nemmeno una porta, sicché bisognava entrare dalle finestre, le quali erano a tanta altezza da far venire il capogiro. Sopra la torre si trovava un bel giardino ornato di fiori, di fontane e di pergolati di verzura che riparavano dai bollori della canicola. Sopra la torre si trovava un bel giardino ornato di fiori, di fontane, di pergolati di verzura che riparavano dai bollori della canicola. In questo luogo le fate mi allevavano con tali cure da sorpassare quanto avevano promesso alla regina. I miei vestiti erano tagliati secondo il gusto della moda e tanto ricchi e magnifici che vedendomi si sarebbe creduto che io fossi in giorno di nozze. Le fate mi insegnarono tutte quelle cose che si addicevano alla mia età e alla mia nascita, né io davo loro molto da fare perché avevo la facilità di imparare alla prima. La dolcezza del mio carattere le aveva innamorate e perché io non aveva mai veduto nessun altro, intendo benissimo che sarei rimasta tranquillamente in quello stato per tutto il rimanere della vita. Esse venivano sempre a trovarmi, montate sul famoso drago che sapete. Non mi rammentavano mai né il re né la regina e siccome mi chiamavano la loro figlia, io credeva di esserlo davvero. Per potermi divertire mi avevano dato un cane e un pappagallo, i quali avevano il dono della parola e parlavano come due avvocati. Nella torre non c'era con me nessun altro. Un lato di questa torre era fabbricato sopra una strada molto avvallata e tutta coperta di alberi, di modo che dal giorno che vi fui rinchiusa non avevo mai veduto passarvi anima viva. Ma un giorno, essendo alla finestra a ciarlare col cane e col pappagallo, mi parve di sentire qualche rumore. Guardai da tutte le parti e finalmente mi venne fatto di vedere un giovine cavaliere che si era fermato per ascoltare la nostra conversazione. Io non avevo veduto altri uomini altro che dipinti, sicché non mi dispiaceva punto quest'occasione altrettanto propizia quanto inaspettata. Senza pensare alle mille miglia, al pericolo che andava unito alla soddisfazione di ammirare un oggetto così piacevole, mi penzolai in fuori per vederlo meglio. E più lo guardavo e più ci pigliavo gusto. Egli mi fece una gran riverenza, fissò i suoi occhi su me e mi parve che si stillasse il cervello per trovare il modo di potermi parlare, perché la mia finestra era altissima ed egli aveva paura di essere scoperto, sapendo bene che io mi trovavo nel giardino delle fate. Il sole calò tutt'a un tratto, o per dir la cosa come sta, si fece notte e senza che ce ne avvedessimo. Per due o tre volte egli si portò il corno alla bocca e mi rallegrò con qualche suonatina. Poi se ne andò senza che io potessi vedere nemmeno che strada pigliasse, tanto la notte era buia. Io rimasi come estatica e non provai più il solito piacere a far conversazione col mio cane e col mio pappagallo. Essi mi dicevano le cose più carine del mondo, perché le bestie fatate sono piene di spirito, ma io avevo la testa chissà dove, né conoscevo punto l'arte di simulare. Il pappagallo se ne accorse, ma furbo com'era, non fece trapelar nulla di quello che rimuginava per il capo. Fui puntuale a levarmi col sole, corsi alla finestra e fu per me una gratissima sorpresa quella di vedere il giovine cavaliere a piè della torre. Egli vestiva un abito magnifico e in questo suo lusso mi lusingai di averci un po' di merito anch'io e colsi nel segno. Egli mi parlò con una specie di tromba, o come dicesse, con un portavoce, e mi disse che, essendo stato fino allora indifferente a tutte le bellezze che aveva vedute, ora si sentiva tutt'a un tratto ferito talmente dalla mia da non sapere quel che sarebbe di lui se non potesse vedermi tutti i giorni. Questo complimento mi fece un gran piacere e fui dolentissima di non potergli rispondere, perché mi sarebbe toccato a gridar forte e col rischio di essere sentita prima dalle fate che da lui. Avevo in mano dei fiori e glieli gettai. Egli gradì il picciol dono come un favore insigne. Mi chiese quindi se sarei stata contenta che egli venisse tutti i giorni alla stessa ora sotto la mia finestra, e se io volessi essere tanto cortese da gettargli qualche cosa. Io avevo un anello di turchine. Me lo levai lesta lesta dal dito e glielo buttai con molta fretta, facendogli segno di andarsene come il vento, e la ragione era che dall'altra parte avevo sentito la fata violenta che a cavallo al drago veniva a portarmi la colazione. La prima cosa che disse entrando in camera mia furono queste parole: sento l'odore della voce d'un uomo. Cerca, drago. Figuratevi se mi rimase sangue nelle vene. Ero più morta che viva dalla paura che il drago, passando per l'altra finestra, non si mettesse a dar dietro al cavaliere, per il quale io già sentivo una mezza passione. «Davvero?» dissi io, «è mia buona mamma, perché la vecchia fata voleva che la chiamassi così. Davvero che mi sembrate in venia di celiare, dicendo che sentito l'odore della voce di un uomo. Forse la voce ha un odore, e quando anche l'avesse, chi volete che sia il temerario ad arrischiarsi a salire in cima a questa torre?» «Dici bene, figlia mia, dici bene», ella rispose, «e mi fa piacere di sentirti ragionare a codesto modo. Capisco anch'io che deve essere l'odio che sento per tutti gli uomini quello che mi fa crederli vicini anche quando sono lontani». Mi diede la colazione e la rocca. Poi soggiunse: «Quando avrai finito di mangiare, mettiti lì e fila. Ieri non facesti nulla e le mie sorelle se l'hanno per male». Di fatto, il giorno innanzi ero stata tanto occupata col cavaliere sconosciuto che non toccai né la rocca né il fuso. Appena se ne fu ita, gettai via la rocca con una specie di dispetto e montai su in cima alla torre per vedere più lontano che fosse possibile. Avevo con me un eccellente cannocchiale. Nulla all'intorno mi impediva la vista. Ero padrona di voltarmi e di guardare da tutte le parti, quando ecco che mi venne fatto di scoprire il mio cavaliere in vetta a una montagna. Egli si riposava sotto un ricco padiglione di broccato d'oro ed era circondato da una numerosissima corte. Pensai subito che dovesse essere il figlio di qualche re vicino al palazzo delle fate, e perché avevo paura che, tornando egli sotto la torre, potesse essere scoperto dal terribile drago, così andai a prendere il mio pappagallo e gli ordinai di volare in cima a quella montagna, dove avrebbe trovato quel cavaliere che aveva parlato con me, al quale doveva dire da parte mia di non tornare sotto le finestre, a motivo che, da quando m'ero accorta, le fate stavano con tanto d'occhi e gli potevano fare un brutto scherzo. Il pappagallo compì la sua commissione, davvero pappagallo di spirito. Rimasero tutti stupiti di vederlo venire ad ali spiegate e a posarsi sulla spalla del principe per parlargli sottovoce all'orecchio. Il principe gradì per un verso l'ambasciata e per un altro verso gli dispiacque. La cura che mi pigliavo di lui faceva bene al suo cuore, ma tutte le difficoltà che incontrava per potermi parlare lo disanimavano, senza distoglierlo peraltro dal disegno che egli aveva fatto di piacermi. rivolse 100 domande al pappagallo e il pappagallo, curioso di sua natura, ne fece altrettante a lui. Il re gli dette per me un anello in cambio di quello con la turchina. E anche il suo era di turchina, ma molto più bella della mia. Era tagliata a cuore e contornata di brillanti. «È giusto», egli soggiunse, «che io vi tratti da ambasciatore. Eccovi in regalo il mio ritratto, ma non lo fate vedere a nessuno fuori che alla vostra cara padroncina». E dicendo così, attaccò il ritratto sotto l'ala del pappagallo, il quale portò nel becco l'anello che aveva per me. Intanto io aspettavo il ritorno del mio Corriere Verde con un'impazienza che non avevo provata mai. Egli mi disse che la persona dalla quale lo avevo mandato era un gran re, che gli aveva fatto un'accoglienza coi fiocchi, che esso non poteva vivere senza di me e che sebbene ci fosse un gran pericolo a venire sotto la mia torre, io poteva essere certa che egli era preparato a tutto piuttosto che rinunziare a vedermi. Queste cose mi messero addosso un gran malessere e cominciai a piangere come una bambina. Pappagallo e il canino Tití si ingegnavano di farmi coraggio, perché mi volevano un gran bene. Quindi Pappagallo mi presentò l'anello del principe e mi fece vedere il ritratto. Confesso che non ho sentito mai tanta consolazione quanta n'ebbi nel considerare da vicino e sotto gli occhi colui che non avevo veduto altro che da lontano. Mi parve anche più grazioso che non mi fosse parso dapprima. E 100 pensieri, parte piacevoli e parte tristi, mi si affollarono nel capo e m'entrò nel sangue un'irrequietezza straordinaria. Le fate vennero a trovarmi e se ne accorsero. Esse dissero fra loro che senza dubbio io doveva annoiarmi e che bisognava cercarmi uno sposo della loro razza. Ne nominarono diversi, ma si fermarono sul piccolo re Migonetto, il cui regno era 500 miglia distante di lì, ma questo non era un ostacolo serio. Pappagallo sentì questo bel fissato e venendo subito a rifischiarmelo mi disse: «Mi fareste proprio pietà, cara padrona, se vi toccasse per marito il re Migonetto. Egli è un fagotto di panni sudici da far paura. Il re che voi amate non lo piglierebbe nemmeno per suo tirastivali. Di, pappagallo, e tu l'hai visto?» «Se l'ho visto», egli soggiunse, «figuratevi che sono stato allevato sopra un ramo insieme a lui». «Come sopra un ramo?» domandai io. «Sì, signora, perché bisogna sapere che egli ha i piedi di aquilotto». Quei discorsi mi fecero un gran male. Guardavo il bel ritratto del re e pensavo che egli non lo aveva regalato a Pappagallo se non perché io lo potessi vedere, e quando lo confrontavo con quel Migonetto mi cascavano le braccia e piuttosto che sposare quello scimmiotto mi veniva voglia di lasciarmi morire. Non chiusi un occhio tutta la notte. Pappagallo e Tití mi tennero un po' di compagnia. A giorno mi appisolai. Ma il canino, che aveva un buon naso, sentì che il re era giù a piè della torre. Svegliò Pappagallo e gli disse: «Scommetto che già in basso c'è il re». Pappagallo rispose: «Chetati, chiacchierone, perché stai sempre con gli occhi aperti e con gli orecchi per aria? Ti dispiace che gli altri riposino un poco?» «Eppure», insisté il buon cane, «scommetto che c'è». «E io ti dico che non c'è», replicò il pappagallo. «Non sono forse stato io che gli ho proibito di venir qui da parte della principessa?» «Una bella proibizione, davvero», gridò il canino. «Un uomo che ama non consulta che il suo cuore». E nel dir così cominciò a strapazzargli con tanta poca grazia le ali che pappagallo perse i cocci sul serio. Gli urli di tutte e due mi svegliarono, e saputo il motivo del battibecco, non corsi, no, ma volai alla finestra e vidi il re che mi stendeva le braccia e col mezzo del portavoce mi disse non poter più vivere senza di me e mi scongiurava per ora a fare in modo o di venir via dalla torre o di farci entrare anche lui, chiamando in testimonio tutti gli dei dell'Olimpo, che mi avrebbe sposata subito e che io sarei diventata una delle più grandi regine dell'universo. Ordinai a Pappagallo di andargli a dire che quello che mi chiedeva era impossibile, ma che non di meno dietro la parola data e i giuramenti fatti mi sarei ingegnata di renderlo felice. Peraltro mi domandavo perché non venisse sotto la torre tutti i giorni. A lungo andare la cosa si sarebbe scoperta e allora le fate non avrebbero avuto né pietà né misericordia. Se ne andò col cuore pieno di gioia e di speranza e io mi trovai in una grande afflizione di spirito, ripensando a quanto avevo promesso. Come uscire dalla torre, che non aveva neppure il segno di una porta, senza altro aiuto che Pappagallo e Tití, ed essendo io così giovane, così poco esperta e così paurosa? La mia risoluzione, dunque, fu quella di cimentarmi a tentare una prova dalla quale non avrei saputo levarci le gambe, e lo mandai a dire al re col mezzo di Pappagallo. Egli, di primo impeto, voleva uccidersi dinanzi ai suoi occhi, ma poi lo incaricò di persuadermi e di andarlo a veder morire o di consolarlo della sua passione. «Sire», esclamò l'ambasciatore con le penne, «la mia padrona è più che persuasa delle vostre parole. Non è che manchi di buona volontà, se potesse». Quando tornò a ridirmi quel che era accaduto, mi afflissi più che mai. Entrò la fata violenta e mi trovò con gli occhi rossi. Allora cominciò a dire che io aveva pianto e che se non confessavo il motivo mi avrebbe bruciata viva, perché tutte le sue minacce erano sempre spaventose. Risposi, tremando come una foglia, che m'ero annoiata a filare e che avrei preso volentieri un po' di spago per far delle reti e chiappare gli uccellini che venivano a beccare la frutta nel mio giardino. «È questo, figlia mia?» ella disse, «tutto quello che desideri? Allora non piangerai più, ti porterò tanto spago da non sapere dove metterlo». E detto fatto, me lo portò la sera stessa. E intanto mi avvertì di pensare a farmi bella e a non piangere, perché il re Migonetto stava per arrivare da un momento all'altro. A questa notizia mi vennero i brividi per le spalle, ma non rifiatai. Appena fu fuori della stanza, cominciai a fare qualche lacciolo, ma l'intenzione mia era di fare una scala di corda, la quale mi riuscì benissimo, senza che ne avessi mai vedute. Peraltro la fata non mi portava mai tanto spago quando era il bisogno e mi mandava a dire «Ma, figlia mia, il tuo lavoro è come la tela di Penelope, non va avanti di una maglia e sei sempre a chiedermi dell'altro spago». «O mia buona mammina», rispondevo io, «voi discorrete bene, ma non vedete che io non so proprio che cosa annaspo e che butto sul fuoco il mio lavoro?» Il mio modo ingenuo di fare la metteva di buon umore, sebbene fosse di un carattere insoffribile e veramente crudele. Col mezzo di Pappagallo mandai a dire al re di venire una tal sera sotto le finestre della torre, che ci troverebbe la scala e che il resto l'avrebbe saputo lì sul posto. Infatti attaccai per bene la scala, risoluta com'ero a fuggirmene con lui. Ma appena egli la vide, senza darmi tempo di scendere, salì su in un batter d'occhio, mentre io stavo mettendo in ordine ogni cosa per la fuga. La vista di lui mi fece provare tanta gioia che non pensai più al pericolo che ci stava sul capo. mi rinnovò i suoi giuramenti e mi scongiurò di non differire più in là ad accettarlo per mio sposo. Pappagallo e Tití, pregati da me, ci fecero da testimoni. Non c'è esempio di una festa di nozze celebrata con tanta semplicità fra due persone di grado così elevato, né c'è ricordanza di due cuori più soddisfatti e contenti dei nostri. Non era ancora spuntata l'alba quando il re mi lasciò. Io gli avevo raccontato l'orribile disegno delle fate di volermi maritata a re Migonetto. Gliene feci il ritratto e n'ebbe più ribrezzo di me. Appena partito lui, le ore mi parvero anni. Corsi alla finestra e lo accompagnai con gli occhi, sebbene facesse ancora buio. Ma quale fu il mio stupore nel vedere per aria un cocchio tirato da salamandre alate che correvano a rotta di collo tanto che l'occhio poteva appena seguirle. Questo carro era scortato da un nuvolo di guardie montate sopra tanti struzzi. Non ebbi tempo di rendermi ragione di chi corresse per aria a quel modo, ma mi figurai subito che dovesse essere o un mago o una fata. Di lì a poco la fata, violenta, entrò nella mia camera. «Ho da darti delle buone nuove», ella mi disse. «Il tuo amante è arrivato qui da poche ore. Preparati a riceverlo. Eccoti dei vestiti e dei finimenti di pietre preziose». «E chi mai vi ha detto», risposi un po' risentita, «che io voglia maritarmi? Non è davvero la mia intenzione. Il re Migonetto può tornarsene di dove è venuto, che per me è padronissimo. Fra me e lui non ci pigliamo di certo». «Sentite, sentite», disse la fata, «oh, che non mi si mette a farla difficile. Vorrei un po' sapere che cosa armeggi con quel cervellino. Alla corte con me non si scherza, o tu lo sposi, o io, o voi. Sentiamo un po' che cosa voi mi fareste», soggiunsi, diventando rossa scarlatta fino alla punta dei capelli per le impertinenze che mi aveva dette. «Che mai mi può accadere di peggio che essere tenuta in una torre, in compagnia di un cane e di un pappagallo, e con l'obbligo di vedere 7 o 8 volte al giorno la figura di un drago spaventoso?» «Oh, sconoscente che non sei altro», disse la fata, «vai là, che meritavi proprio tutti i pensieri e le pene che ci siamo date per te». «Già, io l'avevo detto da un pezzo alle mie sorelle, ne avremo una bella ricompensa». Ella andò a trovarle e raccontò loro che era passato fra noi due e rimasero scandalizzate. Pappagallo e Tití mi dissero a tanto di lettere che se io seguitavo a battere quella strada mi sarei trovata a dei brutti guai. Ma in quel momento mi sentivo così orgogliosa di possedere il cuore di un gran re che le fate non mi facevano paura e che i consigli dei miei piccoli amici mi entravano da un orecchio e mi passavano da quell'altro. Restai vestita com'era, né mi volli mettere un nastro di più. Anzi, per farlo apposta, mi spettinai tutta per parere a Migonetto una vera befana. L'incontro accadde sulla terrazza. Egli vi giunse nel suo cocchio di fuoco. Dei nani piccini ne ho veduti, ma un nane rottolo a quel modo lì mai. Per camminare si serviva nello stesso tempo delle zampe d'aquila e dei ginocchi, perché non aveva ossa nelle gambe, e si teneva ritto sopra 2 grucce, tutte di diamanti. Aveva un manto reale di circa 1 metro di lunghezza, eppure ne trascinava per terra almeno 2 buoni terzi. Invece della testa, un gran zuccone che pareva uno staio e un naso così screanzato che ci stavano sopra 12 d'uccelli ed egli si divertiva a sentirli cantare. La barba pareva un bosco e i canarini ci facevano dentro il nido. Gli orecchi gli passavano di un metro al di sopra del capo, cosa peraltro di cui nessuno si avvedeva, a cagione della smisurata corona a punta che portava in testa per comparire più alto. Le fiamme che mandava il carro arrostivano le frutte, seccavano i fiori e inaridivano le fontane del mio giardino. Egli mi venne incontro a braccia aperte, ma io non mi mossi né punto né poco, per cui bisognò che il suo scudiere gli desse di braccio, e quando si provò ad avvicinarsi scappai in camera e chiusi la porta e le finestre, sicché Migonetto dové andarsene con le fate, le quali mi avrebbero cavato gli occhi dalla bile. Esse gli chiesero mille e mille scuse della mia ruvidezza e, per abbonirlo, perché era un arnese da far paura, pensarono di condurlo la notte in camera mia mentre io dormivo, di legarmi i piedi e le mani e di mettermi così nel carro infuocato perché potesse menarmi seco. Quando ebbero tutto fissato e combinato, tornarono da me e mi ripresero leggermente della mia condotta, contestandosi solo di dirmi che in qualche modo bisognava rimediare al malfatto. Tutti questi rimproveri, giulebbati e in pelle, dettero nel naso a Pappagallo e Tití. «Volete che vi parli chiaro, padrona?» disse il mio cane. «Il cuore non mi dice nulla di buono. Queste signore fate son certa gente che Iddio ce ne liberi tutti, e segnatamente dalla violenta». Io risi di tutta questa paura e stavo sulle spinte aspettando il mio sposo, il quale si struggeva troppo di vedermi per non essere puntuale ai fissati. Gli gettai la scala di corda col fermo proponimento di fuggirmene con lui. Egli montò leggero come una piuma e mi disse tante e poi tante cose gentili e appassionate che anco oggi non ho cuore di richiamarmele alla memoria. Mentre si stava parlando insieme, tranquilli e sicuri come se fossimo stati nel palazzo di lui, vedemmo sfondare con un gran colpo la finestra della camera. Le fate entrarono dentro, montate sul loro drago. Migonetto le seguiva sul suo solito cocchio di fuoco, tirandosi dietro tutte le sue guardie a cavallo agli struzzi. Il re, senza impallidire, messe mano alla spada e non ebbe altro pensiero che quello di difendermi nella più terribile avventura che mi potesse capitare. Ebbene, debbo dirvelo, caro signore, quelle spietate creature gli aizzarono contro il drago che, se lo divorò, vivo vivo, dinanzi ai miei occhi, fuori di me per la sciagura sua e mia, mi gettai in bocca all'orribile mostro perché mi inghiottisse come avea inghiottito la persona che era tutto l'amor mio, e l'avrebbe fatto volentieri, ma le fate più crudeli di lui glielo proibirono. Esse gridarono insieme: «Bisogna serbarla a tormenti più lunghi. Una morte sollecita e pronta è quasi uno zuccherino per una creatura così indegna e scellerata». Mi toccarono e mi vidi trasformata in gatta bianca. Quindi mi condussero in questo palazzo che era di mio padre. Cambiarono in gatti e in gatte tutti i signori e tutte le dame del regno e a parecchi lasciarono soltanto le mani. E così mi ridussero nello stato lacrimevole in cui mi trovaste, facendomi sapere il segreto della mia nascita, la morte di mio padre, quella di mia madre, e come io non avrei potuto essere liberata dalla mia figura di gatta se non da un principe che somigliasse come due gocce d'acqua a quello che mi era stato rapito. E voi, signore, siete il suo ritratto, vivo e parlante, le stesse fattezze, la stessa fisionomia, perfino lo stesso suono di voce. Appena vi vidi per la prima volta, ne rimasi colpita. Io sapevo tutto quello che doveva accadere, come so quello che accadrà, e però vi dico che le mie pene stanno per finire. «E le mie, bella regina, dovranno ancora durare un pezzo?» domandò il principe, gettandosi ai suoi piedi. «Io vi amo, o signore, più della mia vita, e questo è il momento di partire per andare da vostro padre. Vedremo quali sono i suoi sentimenti verso di me e se è disposto a rendervi contento». Ella uscì. Il principe le dette la mano e insieme con lui montò in una carrozza molto più bella e magnifica di tutte quelle che aveva avuto fino allora. Il resto dell'equipaggio non ci scompariva. Basti dire che tutti i ferri dei cavalli erano di smeraldi e chiodi di diamanti. Da quella volta in poi non si è visto più nulla di simile. Inutile star qui a ripetere i colloqui che ebbero insieme il principe e la regina. Ella era di una bontà singolare e di uno spirito finissimo, e il giovane principe valeva quanto lei, sicché non potevano pensare e dire altro che un monte di bellissime cose. Giunti in vicinanza del castello dove dovevano trovarsi i due fratelli maggiori del principe, la regina entrò in un piccolo blocco di cristallo di monte, di cui tutte le sfaccettature erano guarnite d'oro e di rubini. Tutto all'intorno era circondato di tendine per impedire ai curiosi di guardare dentro, ed era portato a barella da giovanotti di bellissimo aspetto e vestiti splendidamente. Il principe rimase nella sua bella carrozza e di lì poté vedere i suoi fratelli che se la passeggiavano a braccetto di due principesse d'una bellezza da sbalordire. Appena lo riconobbero, gli andarono incontro per fargli la festa e domandarono se anch'esso aveva condotto la sua dama, al che rispose che era stato così disgraziato che in tutto il viaggio non si era imbattuto altro che in donne bruttissime, e tutto ciò che gli era capitato di meglio da portar seco era una gatta bianca. Essi si misero a ridere della sua semplicità. «Una gatta!» dicevano essi. «Come mai una gatta? Avete forse paura che i topi ci mangino il palazzo?» Il principe soggiunse che capiva bene che non era prudenza di portare un simile regalo a suo padre, e così fra una parola e l'altra si incamminarono verso la città. I due fratelli maggiori salirono con le loro principesse in due carrozze tutte d'oro e di lapislazzoli. I cavalli portavano in capo dei pennacchi e altri ornamenti. Per farla corta, nulla di più splendido di questa cavalcata. Dietro a loro veniva il nostro giovine principe e quindi il blocco di cristallo di monte che tutti guardavano con grandissima ammirazione. I cortigiani corsero subito ad avvisare il re dell'arrivo dei principi. «Hanno con sé delle belle donne?» domandò il re. «Non si è mai veduto nulla d'eguale». A quanto pare questa risposta non garbò troppo al re. I due principi si affrettarono a salire le scale con le loro principesse, che erano due occhi di sole. Il re li ricevette benissimo e non sapeva a quale delle due dovesse dare la preferenza. Voltatosi al minore dei figli, gli domandò: «Come va che questa volta siete tornato solo?» «Vostra maestà vedrà dentro questo cristallo una gattina bianca che miagola con tanta grazia e che ha le zampine più morbide del velluto, e sono sicuro che le piacerà», rispose il principe. Il re sorrise e si mosse per aprire da se stesso il blocco di cristallo, ma appena si fu accostato, la regina toccò una molla, sicché il blocco andò tutto in minutissimi pezzettini ed ella apparve fuori come il sole dopo essere stato un po' di tempo nascosto fra i nuvoli. I suoi capelli biondi erano sparsi per le spalle e in grandi riccioli le cadevano giù fino ai piedi. In capo aveva tutti i fiori e la sua veste era di leggerissimo velo bianco foderato di seta rosa. Si alzò e fece una profonda riverenza al re, il quale, nel colmo dell'ammirazione, non poté frenarsi dall'esclamare: «Ecco veramente la donna senza confronto e che merita davvero la mia corona!» «Signore», ella disse, «io non sono venuta qui per togliervi un trono che sì degnamente occupate. Sono nata con 6 regni. Permettete anzi che io ne offra uno a voi e uno per uno ai vostri figli. In ricompensa non vi domando altro che la vostra amicizia e questo giovine principe per mio sposo. I 3 regni che avanzano sono più che sufficienti per noi». Il re e tutta la corte fecero un baccano con urli di ammirazione e di allegrezza incredibile. Le nozze si celebrarono subito e quelle dei 2 fratelli ugualmente, motivo per cui per diversi mesi furono feste, baldorie, divertimenti e corte bandita. Poscia ciascuno partì per andare a governare i propri stati. E la bella gatta bianca si immortalò non tanto per la bontà e per la generosità del suo cuore, quanto per il suo raro merito e per la sua gran bellezza. La cronaca di quel tempo racconta che Gatta Bianca diventò il modello delle buone mogli e delle madri sagge e per bene. E io ci credo. Dal triste esempio avuto in casa, essa aveva imparato a sue spese che le follie e i capricci delle mamme spesse volte sono cagione di grandi dispiaceri per i figliuoli.